personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. La storia di oggi ha un inizio folgorante, un inizio con un ragazzo che ha appena 16 anni, che non vuole parlare troppo di sé e che noi seguiremo solo per due giorni nei quali però gli capita di tutto, due giorni pieni di libertà, di solitudine, di disperazione, disappunto, felicità, depressione e soprattutto di incapacità di mettersi al passo col mondo degli adulti. In poche parole racconteremo la storia di un adolescente, il giovane Holden. Espulso dalla scuola, il ragazzo inizia un personalissimo viaggio verso il mondo degli adulti, un mondo che lo sta aspettando al varco, un mondo che lo spaventa, e lui reagisce con rabbia e fastidio a questo appuntamento. Voglio subito darvi un assaggio di che tipo è il nostro Holden, lo faccio grazie a Sergio Castelletto. Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David Copperfield. Ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca. E secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, e soprattutto mio padre. Carini, tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. D'altronde io non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, prima di ridurmi così a terra da dovermene venire qui a grattarmi la pancia. Spero che abbiate ascoltato attentamente queste parole, perché mai come in questo caso quello che lui dice e come lo dice è più importante quasi di quello che gli accade. Sì, perché la sua è una lingua fresca, magari strana, impacciata, piena di ripetizioni, ma quella che abbiamo appena sentito è proprio la voce della sua anima, e forse è la stessa voce che sentiamo quando parlano i nostri figli, gli adolescenti che molti di noi hanno in casa, quando si annoiano, quando scherzano, quando esagerano, quando si ribellano, quando alzano un muro attraverso il quale noi non siamo più in grado di passare. Oggi parliamo anche di loro. E questa è già una novità degli ultimi 50 anni, perché per secoli gli adolescenti non sono esistiti, fino agli anni 60, fino al boom, fino all'arrivo dei Beatles, di Elvis, non esistevano gli adolescenti. Si nasceva, si cresceva e si diventava adulti, e gli adolescenti arrivano nel dopoguerra. E Holden è uno dei primi che si esprime in maniera originale, non è più un bambino, non è ancora un uomo, e chiede di essere ascoltato per quello che è. E siamo costretti a dar retta a questa strana categoria di esseri umani. Nel punk qualcuno li definì la generazione no future, cioè sconfitti già dalla vita in quanto adolescenti, ma forse non è sempre così. La storia di Holden Caulfield inizia un sabato pomeriggio alle 3, c'è una partita di rugby e lui la guarda da una collina di fronte al campo. Le squadre sono le squadre di due licei, quello di Pensey, la sua scuola, o meglio la sua ex scuola, perché lui è stato appena espulso, è stato bocciato in 4 materie su 5, e non è la prima volta che accade, per una ragione o per l'altra è già successo con altre scuole, solo che questa volta lui la vive in maniera diversa. Se me ne restavo lì era perché cercavo di provare il senso di una specie di addio. Voglio dire che ho lasciato scuole e posti senza nemmeno sapere che li stavo lasciando. È una cosa che odio. Che l'addio sia triste o brutto non me ne importa niente, ma quando lascio un posto mi piace saperlo che lo sto lasciando. Se no, ti senti ancora peggio. Holden non ha molti rimpianti. Pensa a una scuola piena di gente ricca ma fasulla, e per lui i fasulli sono quelli che mentono, che fanno finta di essere qualcun altro, sono quelli che si danno aria, insomma il genere di persone che lui detesta. Holden sta attraversando un periodo difficile, non gli piace nessuno, soprattutto non gli piacciono gli adulti, e la categoria peggiore è quella dei professori, come il professor Spencer, che gli vuole parlare prima che lasci la scuola, e lui lo trova a casa influenzato, avvolto da una nuvola d'olio canforato, dentro a una vecchia vestaglia, insomma una vista non bella, e in più lo imbarazza perché gli fa la predica. Ma come si fa a farsi piacere gli adulti quando questi si comportano in questo modo? È impossibile, lui non vede l'ora di scappare da quella stanza. Però le vie di fuga sono veramente scarse, perché ancora 3 giorni e i suoi genitori sapranno della sua espulsione. Lui ha solo 3 giorni di quiete e non li vuole passare a ascoltare le ramanzine del professor Spencer. E per questo lo lascia lì, torna nel dormitorio. Vive in una stanza che divide con un certo Ward Stradlighter, e quando questo non c'è, lui rimane seduto in poltrona a leggere. Uno di quei ragazzi che non vanno bene a scuola, ma che ama leggere, ce ne sono molti, ragazzi che amano leggere, a patto che non sia un professore o un adulto a indicare loro il libro da leggere. Questo è il senso della cosa. Io sono di un'ignoranza crassa, ma leggo a tutto spiano. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che, quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue, vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. Ed è una bella immagine questa, l'ho pensato anch'io più volte. Parlare con chi ha scritto il libro, fargli le domande, sentirlo come fosse un amico. È vero, a volte ci si sente più vicini a uno scrittore che al proprio compagno di stanza, così come Holden. È più vicini a uno che magari è vissuto 100 anni prima di te che non a un tuo amico che vedi tutti i giorni. Questo amico di Holden, questo Stradlighter, è un narcisista, è anche un sudicione, così lo definisce Holden, però è un bel ragazzo, quindi piace alle studentesse, quindi se ne infischia di essere pieno di difetti. Quella sera esce con una nuova ragazza e a Holden non fa piacere scoprire che una certa Jane è una vicina di casa di New York, è una ragazza intelligente, carina, una a posto, e anche in questo, insomma, troviamo delle similitudini. A tutti i maschi è capitato di vedere una ragazza carina che piaceva uscire con uno che non stimavamo, uno insensibile, uno che la trattava male. Holden non vorrebbe che questa ragazza finisse nelle grinfie del suo compagno di stanza, insomma si innervosisce, è inquieto. E poi Stradlighter gli chiede addirittura di scrivere un tema al posto suo. Prendete uno molto bello, o uno che si crede proprio un fenomeno. Beh, sta sempre a chiedervi di fargli un grosso favore. Siccome si amano follemente, credono che li amiate follemente anche voi e che moriate dalla voglia di fargli un favore. Ma proprio a lui, Holden, che è stato espulso perché va male a scuola. La vita è veramente ironica, però alla fine Holden accetta, perché in fondo a lui scrivere piace. Dopo cena si mette in pigiama, indossa un nuovo berretto che ha comprato da poco, un berretto da cacciatore, quelli, sapete, quelli a quadrettoni rossi e neri con la visiera e i copriorecchie che scendono lateralmente, e col cappello addosso tutto gli sembra più facile. Scrive velocemente, solo che esce fuori tema, perché appena prende in mano la penna gli torna in mente il suo fratello Ellie, quello che ama scriversi le poesie sul guantone da baseball per passare il tempo leggendo nelle attese tra un tiro e l'altro. Ellie, dai capelli rossi, dalla risata allegra, il suo fratello che è morto a 13 anni di leucemia, e lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Holden. Forse la sua rabbia è iniziata proprio quel giorno, quando il fratello lo ha lasciato. Ho dormito nel garage la notte che lui è morto e ho spaccato col pugno tutte quelle dannate finestre. Così, tanto per farlo. Ho tentato anche di spaccare tutti i finestrini della giardinetta che avevamo quell'estate, ma a quel punto mi ero già rotto la mano, eccetera, eccetera, e non ho potuto. È stata una cosa proprio stupida, chi lo nega? Ma io quasi non sapevo nemmeno quello che stavo facendo. E poi voi non conoscevate Ellie. La mano ogni tanto mi fa ancora male, quando piove e compagnia bella. E io non posso più stringere il pugno, ben stretto, voglio dire. Ma tolto questo, non me ne importa molto. Voglio dire che in qualunque caso non diventerò mai un dannato chirurgo e nemmeno un violinista, né niente. Quando Stradlighter torna dall'appuntamento il tema è pronto, però l'amico non lo ringrazia perché il tema è troppo personale, troppo intimo, e così i due litigano e ovviamente Holden ha la peggio e si ritrova col sangue che gli cola dal naso per un pugno, è al tappeto e Holden non vince mai quando si fa a botte. Questa volta fa più male del solito, forse perché il pugno arriva alla fine di una brutta giornata, quelle nelle quali ti sembra di aver preso già abbastanza pugni, forse perché il ricordo del fratello è tornato a farsi vivo. Insomma, Holden è stufo marcio di tutto, di pensa e dei compagni, di quella vita. E così decide di andare via in anticipo. Pensi lo fa sentire troppo solo, troppo triste. Forse anche una squallida camera in un alberghetto newyorkese sarà meglio di quella scuola. Lui va a New York, ma non torna ancora a casa dei suoi. Non ha nessuna intenzione di giocarsi quei 3 giorni, probabilmente gli ultimi 3 giorni sereni, perché poi dovrà dire che è stato espulso dalla scuola e le cose peggioreranno ulteriormente. Insomma, vuole arrangiare, si fa le valigie, però c'è ancora questo sentimento di tristezza, soprattutto quando a finire in valigia sono dei pattini da ghiaccio. Quando dovetti mettere dentro quei pattini da ghiaccio nuovi di zecca che mia madre mi aveva appena mandato un paio di giorni prima, questo mi depresse. Mi pareva di vedere mia madre che andava da Spalding e faceva un sacco di domande sceme al commesso, e io qui mi stavo facendo buttar fuori un'altra volta. Questo mi faceva sentire abbastanza triste. Mi aveva comprato i pattini sbagliati. Io volevo i pattini da corsa e lei mi aveva preso quelli da hockey, ma mi rendeva triste lo stesso. Quasi tutte le volte che qualcuno mi fa un regalo, finisce che mi rende triste. Siamo a sera tardi, Holden sta per abbandonare per sempre la sua scuola, il naso ancora gli sanguina dopo il pugno preso e per un attimo gli torna in mente la madre e il sentimento che lo pervade è una immensa tristezza. Bisogna scappare, bisogna fuggire, prende un treno per New York, una volta arrivato a New York prende un taxi che attraversa il Central Park e il ragazzo in mezzo al parco si scuote, gli viene in mente una domanda che lo assilla da tempo. Pensavo al laghetto di Central Park, vicino a Central Park South. Chissà se quando arrivavo a casa l'avrei trovato gelato, mi domandavo. E se era gelato, dove andavano le anitre? Chissà dove andavano le anitre quando il laghetto era tutto gelato e col ghiaccio sopra. Chissà se qualcuno andava a prenderle con un camion per portarle allo zoo, o fatte la pesca dove, o se volavano via. Può sembrare una domanda inutile, uno di quei pensieri, quelli che affiorano alla mente non si sa perché, quando uno è in macchina, quei pensieri che scacci via in un attimo, ma qui siamo di fronte al grande mistero dell'adolescenza, quando i pensieri hanno un peso diverso e per Holden, per esempio, il destino delle papere diventa un pensiero importante. Dove vanno queste papere? Cosa succede a quello che non vediamo più? Cosa c'è dietro alla prima fila, dietro a quello che viene mostrato? Qual è l'altra parte della vita che noi non riusciamo a individuare? La poesia di Holden è proprio questa capacità di vedere le cose in un modo diverso, è una capacità che lo rende unico. Per aiutare a comprendere questo concetto ho chiamato in mio soccorso un grande scrittore, Alessandro Baricco, che conosce bene Holden e ha chiamato una scuola in suo onore. Holden cos'è che si chiede? Lo chiede a tutti, ai taxisti, alla gente. Chiede sempre, scusi, lei ha visto le anatre nello stagno di Central Park? Sì, le conosce, sa, presente, sì. Volevo dirle, ma d'inverno, quelle anatre, dove diavolo finiscono? Cioè, quando lo stagno diventa ghiacciato e non le si vede più. Cioè, le vanno a prendere con un pullman, le portano allo zoo, vanno in un pensionato per anatre. Cosa ne è di quelle anatre? Ora, io non so, tutti voi avrete visto delle anatre in uno stagno. Non so se vi siete mai chiesti dove vanno a finire d'inverno. È un po' come chiedersi dove vanno a finire d'estate i caldarostai. Cioè, sono quelle domande che non è la cosa prima che ti viene in mente, è la quarta, la quinta. A Holden viene sempre in mente la quarta. In compenso, con quel quarto livello, in quella quarta fila, è un genio. Cioè, là dove i sentimenti diventano piccolissimi, fragilissimi, Holden li inchioda uno a uno. E per tutto questo soggiorno solitario a New York, Holden si chiede dove vadano a finire le anatre. E non è un caso, secondo me, ha ragione Baricco. È come se la sua domanda riguardi anche la sua sorte, cioè la voglia di scoprire dove andrà a finire lui dopo questa avventura così strana. Ci sarà qualcuno che lo accoglierà, che lo riparerà dal freddo come quelle misteriose anatre. Sulle ali di carta. I personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia del giovane Holden. Holden, questo adolescente, 16 anni, che è stato espulso da scuola, che vuole scappare dalle responsabilità che ha, due giorni ancora prima di dover dire ai suoi genitori quello che è successo e quindi di dover sopportare le conseguenze di una espulsione da scuola. È una storia che potrebbe essere quella di un qualsiasi adolescente che attraversa la vita, è di fronte allo strappo. Ecco, Holden Caulfield è arrivato a quel punto. Il suo è un rifiuto totale, è un rifiuto non solo verso la scuola, ma nei confronti di un sistema che attraverso la scuola, la famiglia, le convenzioni, un sistema che sostiene una società che lo vuole schiavo, lo vuole asservito, lo vuole consenziente, in una parola una società che lo vuole fasullo. Però a 16 anni crescere è difficile, è un percorso che somiglia un po' a quello dei granchi, no? Vai avanti due passi, poi vai un passo indietro, un giorno sei adulto, un giorno sei bambino. Sono alto 1,89 m e ho i capelli grigi. Sul serio, da un lato, il destro, sono pieno di capelli bianchi, milioni. Li ho sempre avuti anche quando ero bambino. Eppure certe volte mi comporto ancora come se avessi appena sì e no 12 anni. Lo dicono tutti, specie mio padre. E in parte è vero, ma non del tutto vero. La gente pensa sempre che le cose siano del tutto vere. Io me ne infischio. Però certe volte mi secco quando la gente mi dice di comportarmi da ragazzo della mia età. Certe volte mi comporto come se fossi molto più vecchio di quanto sono. Sul serio. Ma la gente non c'è caso che se ne accorga. La gente non si accorge mai di niente. E la gente non si accorge mai di niente. Holden ha una sensibilità particolare. E, per esempio, adesso è in quella lercia stanza dell'hotel Edmont. Lui guarda fuori dalla finestra. Vede un vecchio in mutande nella finestra di fronte. Uno che si mette dei vestiti da donna e gira per la stanza ballonzolando sui tacchi. Oppure vede una coppia che si diverte sputtandosi dell'acqua addosso. E insomma, lui considera il fatto di quanto il mondo sia strano. A lui questa stranezza lo lascia meravigliato, forse anche un po' spaventato. Vorrebbe sentire qualcuno di normale e per questo gli viene in mente la sorella minore, Phoebe. Dovreste vederla. Garantito che in tutta la vostra vita non avete mai visto una ragazzetta tanto carina e sveglia. È veramente sveglia. Voglio dire, da quando va a scuola ha sempre preso tutti i 10. In realtà io sono l'unico deficiente della famiglia. Mio fratello D.B. è uno scrittore, via discorrendo, e mio fratello Ellie, quello che è morto e di cui vi ho parlato, era un fenomeno. Io sono proprio l'unico deficiente, ma dovreste vedere la vecchia Phoebe. Ma Phoebe ha solo 10 anni, a quest'ora è sicuramente a dormire, e allora Holden decide di andare a bere un cocktail nel nightclub dell'albergo. Trova tre ragazze con cui balla, la conversazione non decolla, va via, va verso un altro locale e più che altro sta sperando di trovare un posto dove servano dell'alcol anche a lui che è minorenne. Alla fine trova non solo da bere ma anche una ragazza con cui trascorrere la notte, una prostituta che gli viene offerta dall'addetto all'ascensore dell'albergo, e una volta in camera ha un momento iniziale di eccitazione e poi però non ce la fa, si sente depresso, si sente fuori luogo, vorrebbe mandarla via, è nervoso, anche perché in verità lui è ancora vergine e le occasioni non sono state molte e comunque non sono andate come lui sperava. Il fatto è che quando state proprio lì lì per farlo con una ragazza che non sia una prostituta o qualcosa del genere, voglio dire, quella continua a dirvi tutto il tempo di smettere. Il mio guaio è che smetto. C'è tanti che non smettono mica, ma è più forte di me. Non capite mai se quelle vogliono veramente che smettiate o se hanno soltanto una paura d'inferno o se vi dicono di smettere solo perché se voi continuate la colpa è vostra e non loro. Io smetto tutte le volte ad ogni modo. E così quando Sunny, la prostituta, con freddezza si toglie il vestito, gli chiede di controllare il tempo sull'orologio, a lui passa ogni voglia, vorrebbe solo parlare. Da quando ha lasciato Pensey ha incontrato professori, baristi, tassisti, addetti agli ascensori e lui vorrebbe scambiare due parole con qualcuno che lo ascolti per davvero. E certo non è lei, non è Sunny, che è solo una prostituta. Insomma, l'incontro si conclude prima ancora di avere consumato fumato e lui le paga la cifra pattuita, lei prova a chiedere il doppio, lui rifiuta e qualche ora dopo lui è già in pigiama e si presentano Sunny e il suo protettore, che è l'uomo dell'ascensore, che lo gonfia di botte mentre la ragazza prende altri $5. Insomma, la serata di Holden finisce mestamente nel bagno. Restai nella stanza da bagno per circa un'ora, prendendo il bagno e via discorrendo. Poi tornai a letto. Mi ci volle del bello e del buono per addormentarmi. Non ero nemmeno stanco, ma alla fine mi addormentai. In realtà, però, avevo voglia di suicidarmi. Mi sarei buttato dalla finestra. Probabilmente l'avrei anche fatto se fossi stato sicuro che qualcuno mi avrebbe coperto appena toccavo terra. Non mi andava che un mucchio di ficcanaso stessero lì a guardarmi tutto sporco di sangue. Ma per fortuna, come spesso accade, dopo una notte terribile c'è un mattino migliore. E Holden fa colazione in un bar, chiacchiera con due suore che sono gentili. Insomma, la giornata sembra prendere un avvio diverso. Sono spariti i pensieri tristi, la notte li ha portati via. Adesso davanti al ragazzo, davanti a Holden, c'è la prospettiva di un appuntamento con una sua vecchia fiamma, Sally Ace, che gli ha promesso di andare a teatro con lui, e per ingannare l'attesa Holden fa un giretto al museo di storia naturale dove andava da bambino. La cosa migliore di quel museo era però che tutto stava sempre allo stesso posto, nessuno si muoveva. L'unico a essere diverso eri tu. Non è che fossi molto più grande né niente di simile, non era proprio questo, era solo che eri diverso, ecco tutto. E dopo il museo Holden si sta preparando a incontrare Sally a teatro, la sua fiamma, ma purtroppo le cose non andranno come lui se le aspetta. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Holden sta aspettando Sally e in realtà non è una ragazza proprio profonda, intelligente. Forse è Holden che non sa scegliere la persona giusta, ma c'è insomma questa incomunicabilità che spesso capita agli adolescenti. Tu hai tante cose da dire e ti trovi di fronte una un po' stupidotta. Succede a noi ragazzi. In tutto quello che racconta c'è un modo di guardare il mondo. Un modo di guardare New York, la gente, le suore, il parco, qualsiasi cosa che lui vede. Un modo di guardare tutto questo che è assolutamente particolare. Eh sì, anche Baricco la pensa come me. In realtà sono io che la penso come lui. E insomma, Holden, preso dallo slancio, propone a Sally, dopo un bel pomeriggio passato assieme, di scappare con lui, di lasciare New York, di andare a vivere in una capanna isolata fuori dal mondo. Lei rimane di stucco, è molto irritata dalla proposta. Insomma, i due si lasciano male. Sally non ha nessuna intenzione di dar vita a un'esistenza di quel genere. È una ragazzina molto più terra terra. Non va meglio neanche quando lui si incontra con Carl Lewis, che è un suo vecchio compagno di scuola. L'unica cosa che ricava da questo incontro è il consiglio di crescere. Cresci, ma è proprio questo il punto. Vale la pena crescere se questo vuol dire adattarsi a un mondo fasullo? Insomma, Holden non rimane che andare a trovare l'unica persona davvero autentica che conosce, la sorellina Phoebe. Arriva di notte, di nascosto, entra in casa sua, i genitori per fortuna non ci sono, può stare un po' in pace con la sorella, ma alla bambina ci vuole poco tempo per capire che il fratello è stato mandato via dalla scuola per l'ennesima volta. Questo la fa arrabbiare e quando si arrabbia lei diventa spietata, e ce lo racconta ancora Baricco come diventa spietata Phoebe. Poi a un certo punto però viene fuori la vecchia Phoebe saggia e lo inchioda con una domanda che è a lui ma è a tutta la generazione che poi di lui fece un simbolo, e gli dice questo: sì, tu mi hai raccontato tutte queste cose, sono tutti scemi, la scuola sono stupidi, i professori sono fessi, anche papà e mamma. Ok, ma a te non piace niente di quello che succede, dice questo bambino. E Holden dice: no, non è vero, a me piacciono. No, no, a te non piace niente. Prova a dimmi una cosa che nella vita ti piace, ma che ti piace veramente. E lo inchioda, perché lui non ha risposta. E lei continua, non lo lascia scappare, dice: dimmi una cosa che tu vorresti fare da grande e che ti piace. Allora lui prova, dice: ma forse l'avvocato, chissà, un giornalista, non so, ma non ha una risposta. Ed è la domanda in generale a tutto un mondo, che è il mondo che rifiuta la vita normale, il sistema. Sì, va bene che okay, rifiuti, ma poi c'è qualcosa che ti piace. Cosa vuoi fare da grande? Holden è inchiodato. E Holden dà una tipica risposta sua, che è un'immagine bella, naturalmente non risolve il problema. Quando la vita sta per azzannarti, non puoi risolverla acchiappando bambini in mezzo a un campo di segale. Questa è la verità, e rimane il fatto che lui è stato espulso e che, come dice Phoebe, il papà lo ammazzerà prima o poi. Sai cosa mi piacerebbe fare? Dissi. Cosa? Sai quella canzone che fa «Se scendi tra i campi di segale ti prende al volo qualcuno»? Mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale, eccetera, eccetera. E io sto in piedi, sull'orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo. Voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli. So che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. La vecchia Phoebe non disse niente per molto tempo. Poi, quando finalmente si decise a dire qualcosa, tutto quello che disse fu: papà t'ammazza. E improvvisamente i genitori tornano a casa. Lui deve scappare via prima di dover confessare l'espulsione. Trova asilo da un suo ex insegnante di letteratura, il professor Antolini, che lo accoglie con la moglie. È tardi, i due sono in vestaglia e il professore però non si fa pregare a conversare con Holden e cerca di dargli una direzione, di aiutarlo a trovare il senso della vita. Gli cita una frase di un famoso psicanalista che dice: ciò che distingue l'uomo immaturo e che vuole morire nobilmente per una causa, ciò che distingue l'uomo maturo e che vuole vivere per essa. Quando Holden continua a protestare, si lamenta di tutto, si lamenta partendo dai suoi professori, Antolini aggiunge questo: non appena ti sarai lasciato dietro tutti i professori Vinson, allora comincerai ad andare sempre più vicino, se sai volerlo e se sai cercarlo e aspettarlo, a quel genere di conoscenza che sarà cara, molto cara al tuo cuore. Tra l'altro, scoprirai di non essere il primo che il comportamento degli uomini abbia sconcertato, impaurito e perfino nauseato. Non sei affatto solo a questo traguardo, e saperlo ti servirà di incitamento e di stimolante. Molti, moltissimi uomini si sono sentiti moralmente e spiritualmente turbati come te adesso. Per fortuna, alcuni hanno messo nero su bianco quei loro turbamenti. Imparerai da loro, se vuoi. Proprio come un giorno, se tu avrai qualcosa da dare, altri impareranno da te. È una bella intesa di reciprocità, e non è istruzione, è storia, è poesia. La poesia però non salva Holden dalla depressione. Il giorno dopo decide di chiudere con New York, di chiudere con la scuola, con tutto il resto. Vuole partire per l'ovest, verso le grandi foreste, gli alberi, i grandi spazi. Forse in quei luoghi incontaminati lui potrà anche condurre una vita incontaminata. Prende una decisione e decide di salutare la sorella un'ultima volta. Le dà appuntamento al Museo di Storia Naturale. Solo che Phoebe si presenta con una valigia, perché vuole partire con lui e andare a ovest. Litigano e lui le promette che non andrà più via. Per celebrare la pace vanno alle giostre. Finalmente l'immagine della sorellina che volteggia sulle giostre calma per un attimo l'animo tormentato di Holden. Mi sentivo così maledettamente felice, tutta un tratto, per come la vecchia Phoebe continuava a girare intorno e intorno. Mi sentivo così maledettamente felice che per poco non mi misi a urlare, se proprio volete saperlo. Non so perché. Era solo che aveva un'aria così maledettamente carina, lei. La che girava intorno e intorno col suo soprabito blu, eccetera, eccetera. Dio, peccato che non c'eravate anche voi. La giostra gira, gira, quando si ferma sembrano fermarsi anche tutte le cose. Tutto si calma, tutto si ricompone e questa volta Holden ha deciso di non scappare più, di tornare a casa una volta per tutte. Lo sta aspettando un percorso lungo, molto tortuoso, molto complicato. È un percorso che forse lo riporterà a scuola, ma questa volta per tirarne fuori qualcosa di buono, come gli consigliava il suo professore, il professor Antolini. Deve imparare Holden a essere un uomo. E ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, ma in realtà prima di tutto bisogna dare un colpo d'ala con se stessi, e se sei un adolescente bisogna imparare a crescere. È un percorso molto difficile, ci siamo passati tutti, si soffre molto e gli altri non capiscono che stai soffrendo, ma dobbiamo farcela. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci nella mia pagina, nella nostra pagina, nei vari social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.